get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a voi. Quella che sta iniziando e che vi accingete ad ascoltare sarà la 266esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. Io sono Caterina ed oggi vi faremo ascoltare la registrazione della presentazione del libro Bambole Viventi, Il ritorno del sessismo, di Natasha Walter, fatta alla Casa Internazionale delle Donne di Roma lo scorso 22 febbraio. È stata una presentazione molto interessante perché il libro sicuramente merita attenzione, però per noi del CLR c'è un ulteriore motivo di interesse perché questo libro esce con la casa editrice Ghena, che è una nuova casa editrice che vede come consulente scientifica Monica Cristina Storini. Ora, forse qualcuna più attenta o semplicemente con più memoria si ricorderà che Monica, membro del collegio dei docenti del dottorato internazionale e studi di genere della facoltà di filosofia, lettere, scienze umanistiche e studi orientali della Sapienza di Roma, ha partecipato ad alcune trasmissioni di È una calamità proprio qui a Radio Onda Rossa. Monica è una compagna che ha condiviso con noi il lavoro politico del CLR per un periodo abbastanza lungo, per noi sempre troppo corto. Bene, io direi di ascoltare un brano musicale, per la precisione ascoltiamo Tanita Tikaram con il brano Valentine Heart e poi continueremo, cioè passeremo all'ascolto delle registrazioni iniziando proprio da Monica. A seguire sentiremo poi le altre due che hanno collaborato alla presentazione di questo libro, Bambole Viventi, che sono Giamila Mascà e Rachele Borghi. Allora, a questo punto vi ricordo semplicemente che potete chiamarci qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 oppure potete inviarci un sms al 339 853 6270 che resterà attivo fino alla fine della nostra trasmissione. Buon ascolto e ci sentiamo dopo. If I was a Londoner, rich with complaint, would you take me back to your house which is sainted with lust and the listless shade? If I could have held you once more in that light, it's nothing to you, but it keeps me alive like a Valentine's Day. It's a Valentine's heart anyway. The king and the ages, they fall by the plan. It's always the tired and the ordinary man. It's the challenge, it's funny and such. I want to see you again. I'll come back and see you again. Doesn't exist. I tell you it's funny, but you like just to twist all my words. It's a shame you're so young. My words, it's a shame I'm so dumb. I figure a house with this smoke and the fence, the people round here would be. Please take my word on this. I would believe just in you, just believe in you. I would believe just in you, just believe in you. And 5 days to catch me round with my ring as I visit the friendships that meant everything to the girl with the clown's face. To the girl with the clown's face. Benissimo, allora buonasera a tutte e a tutti. Sono particolarmente emozionata di essere qui a introdurre questa nostra chiacchierata sulla prima uscita del marchio editoriale Ghena, di essere alla Casa Internazionale delle Donne. Ringrazio la casa che ci ospita, ringrazio le donne che sono sempre state vicine ai progetti che hanno riguardato la cultura e i saperi delle donne con tanto impegno, con tanta forza di volontà, perché il volontariato è sempre stato ciò che ha spinto e ha tenuto in piedi la forza del movimento. Dunque, io racconterò brevemente come nasce questo progetto e quello che questo progetto vuole essere. C'è una relazione, che è la relazione di lavoro e adesso anche di amicizia, oltre che di lavoro, con Francesca Gagliardi, che è la direttrice editoriale di questo marchio e che ha avuto la fortuna sfortuna di fare con me un pezzo della sua formazione. Quindi per me questa è una cosa particolarmente importante, perché come avere una specie di ritorno, no? Come trovare che il lavoro che si fa anche nelle sedi istituzionali che non necessariamente guardano al lavoro sulla cultura e sui saperi delle donne, su gender studies, vogliamo dire in questa maniera, anche il lavoro che si fa in maniera forse un po' dissimulata, poi in fondo è come se gettasse un piccolo seme. Da questo seme possono nascere insieme dei progetti per far andare avanti questo lavoro. Quindi quando qualche tempo fa Francesca è venuta da me, con Laura e poi più tardi ho conosciuto anche Clio, per propormi questo progetto, devo dire che la prima sensazione è stata quella di un rischio enorme, di una cosa molto difficile da portare avanti. Qual era l'idea? L'idea era quella di creare un luogo, uno spazio essenzialmente, uno spazio in cui si incontrasse da una parte quello che il sapere accademico, istituzionale, i gender studies, post-colonial studies, cultural studies portavano avanti sul piano della riflessione che era comunque nata dai movimenti delle donne, dall'altra parte il tentativo di avvicinare questo mondo anche a tutte le altre, cioè a tutte coloro che, e a tutti colori, scusatemi il gioco grammaticale, ogni tanto facciamolo, che vivono la vita di tutti i giorni e con un mondo diviso in maschile e femminile, che genderizza il maschile e il femminile in un determinato modo, fa comunque i conti, anche se non consapevolmente a volte fino in fondo. Quindi l'idea era quella di trovare uno spazio di unione dello sguardo di genere, ma anche dello sguardo di uomini e donne nel mondo. non soltanto, quindi una saggistica accademica, non soltanto una narrativa, se si può dire così, di genere, perdonatemi la velocità, ma una saggistica, una narrativa che parlassero di donne e uomini, e donne e uomini nel mondo di oggi, nel mondo, nella complessità del mondo di oggi, che non può più prescindere dal fatto che c'è stata una lunga riflessione su questo. L'idea naturalmente mi entusiasmava moltissimo, pur sapendo quale fosse, come dire, la sfida in questo momento economico, in questo momento di grande difficoltà e anche, diciamo, di un mondo che ci porta tematiche sempre più difficili da affrontare. Credo che sia passato ormai quasi più di un anno da quando abbiamo cominciato a parlare di queste cose ed è poi cominciato un lavoro frenetico di sguardo verso ciò che veniva prodotto, che era stato prodotto, verso ciò che potevamo chiedere di produrre, quindi quali fossero gli argomenti che c'erano più vicini, che sarebbero stati più interessanti, sempre in questo duplice sguardo che voleva essere di vicinanza agli studi di genere, ma nello stesso tempo di vicinanza alla vita di uomini e donne. Quindi da questo sono scaturite due cose. Beh, innanzitutto il nome del marchio. Questo va detto, Gena è un apax, propriamente un termine che non esiste, è una forzatura di un termine greco molto conosciuto perché è alla radice di genere fondamentalmente. L'abbiamo declinato al femminile tanto per rendere subito chiaro che riteniamo che dentro gli studi di genere, anzi gli studi di genere non sarebbero esistiti se non ci fosse stato il movimento della cultura generata dalla cultura e dai saperi delle donne. Quindi genos no, gena, anche diciamo spinte dal fatto che esiste una significanza nel greco antico, nel greco classico, che è la genitrice. Quindi nell'idea, nella speranza che possano nascere nuovi sguardi sul mondo e che ci aiutino a capire meglio come il mondo stesso è articolato e come noi riusciamo a stare in questo mondo. Quindi la prima cosa è stata la scelta di questo nome e poi la diciamo riflessione di dividere comunque ciò che Gena avrebbe prodotto in due grosse sezioni, quella di saggistica, diciamo propriamente detta, in cui naturalmente ci sarà, speriamo, anche un po' di saggistica accademica, ma soprattutto, come abbiamo detto, con una saggistica che cerchi di essere chiara, aperta alle esperienze della vita quotidiana, che ci dia una riflessione che possa essere utilizzata nella vita di tutti e di tutte, e dall'altra parte un'apertura verso la narrativa, una narrativa che cercasse di mettere insieme non solo diciamo così, lo sguardo di genere, ma lo sguardo complesso che oggi è necessario attraverso il mondo che abbiamo di fronte, che ci permette di guardare alle culture, che ascolti le voci delle altre culture e che quindi metta insieme sguardi di donne appartenenti a culture diverse. Queste le due spinte delle due diciamo, sezioni fondamentali. Ora, nella diciamo, lavorazione, il primo testo di cui adesso parleremo è un testo prodotto da Natasha Walter, una giornalista inglese, una delle voci fondamentali del femminismo anglosassone, britannico in particolare. In questo testo, che si chiama Living Dolls, Bambole Viventi, con il sottotitolo Il ritorno del sessismo, la scrittrice riflette su come in realtà ci sono oggi modalità forse più, diciamo così, mascherate, ma fondamentalmente il sessismo parla una lingua antica, anche se forse con forme e stereotipi leggermente differenti. A breve dovrebbe uscire Cinderella Ate My Daughter, cioè Cenerentola ha mangiato, ha divorato mia figlia, che è di Peggy Orenstein, e poi cominceremo anche qualcosa nella parte diciamo di narrativa con professor Anna, che è stato un bestseller in Egitto. Ho lasciato fuori, ma non perché me ne sia dimenticata, perché è un testo la cui collocazione ci ha fatto discutere molto a lungo, un nuovo libro di Marina Piazza, qui torna a parlare della sua esperienza e quindi anche di che cosa vuol dire lavorare con le donne, quindi nella sua pratica diciamo di relazione, quali sono le conseguenze di questa pratica, e quindi è un po' anche un saggio, ma la componente memoriale, la componente autobiografica è, come sempre, credo, nella scrittura delle donne, anche nelle forme diverse con cui compare, un elemento importantissimo. Quindi è nella sezione saggistica, però sappiate che troverete questo modo non leggero, ma questo modo, diciamo, intenso di riflettere alla propria esperienza come esperienza che diventa parte di un sapere che si mette in comune. Speriamo bene per tutto quanto, speriamo bene anche per questo. Allora passerei alle amiche che presentano Bambole Viventi la parola. Abbiamo detto in stretto ordine alfabetico, quindi Giamila, grazie. At night, I feel so lonely. There's a body next to mine, and I'm feeling cold. And baby, in the morning light, when I look in some stranger's eyes, then I it's really for your paradise. I dance, I sing, but there's something missing. So hard to make it right, but it always ends up the same. You know I need you. I need you like I needed you the first time we kissed. I need you, and I need you now, and I can't resist. Stay you all through the day. I hate myself for hurting you. Yes, I know I drove you clean away. You know I need you. You know I need you. You know. Quella che avete appena ascoltato era Joan Armatrading con il brano I Need You, e adesso manderò in onda il sonoro del secondo intervento fatto da Giamila Mascà. Mi presento, Giamila Mascà, io faccio parte di Che Spazio, che è uno dei tanti gruppi e associazioni che gestiscono il caffè letterario qui alla Casa Internazionale delle Donne, e come anche Rachele, tra l'altro. Devo dire intanto che io mi sono divertita a leggere questo libro, perché è un libro che ha anche degli elementi così di scrittura personale e quindi molto divertente. È un viaggio nel mainstream, un viaggio fatto di conversazioni con ragazze molto giovani e meno giovani, fatto di film, programmi televisivi, giornali, riviste femminili e quant'altro. Quindi diciamo c'è questo grosso tunnel della cultura mainstream che viene attraversato da Natasha Watson, che appunto è una giornalista affermata e anche una figura importante del femminismo britannico, e diciamo, il leitmotiv un po' di questo viaggio è, allora, comincia con una frase: non mi aspettavo che saremmo arrivati a questo punto, ed è lei che entra in un negozio di giocattoli a Londra, in cui appunto i piani dei giocattoli per i bambini e per le bambine sono assolutamente separati, e lei entra in questo mondo tutto rosa, lei un rosa nauseabondo, fatto di Baby Mia, Barbie, Hello Kitty e quant'altro, e appunto andando avanti in questo mondo tutto rosa è profondamente disgustata e dice, non so, fa questa considerazione, dice, non pensa sempre arrivati così in basso. E però questo, come dire, questo motivo ritorna perché a fronte delle interviste che lei conduce, quindi in realtà aveva già pubblicato degli articoli che lei aveva scritto quando aveva condotto un'indagine su tutta una serie di locali di lap dance che hanno avuto un boom negli ultimi anni in Inghilterra. E quindi lei era andata in questi locali, li aveva visitati, aveva parlato con molte ragazze giovanissime che lavorano in questi locali, e lì di nuovo quando parla con queste ragazze si percepisce, da come rende conto di quello che le viene detto, che è un po' sempre: non posso credere ai miei occhi, non posso credere alle mie orecchie. Per cui parla con delle teenager che dicono che alla domanda ma qual è una donna che per te rappresenta un modello di riferimento, loro rispondono Jordan, che è una soubrette nota in Gran Bretagna per avere appunto delle grosse protesi al seno, ha partecipato credo a qualche programma televisivo tipo Grande Fratello e così via. Oppure chiede a delle ragazze sempre molto giovani: ma non vi sentite un po' oggetto a stare qui esposti a questo sguardo di ragazzi vogliosi? Ma sì, ma per troppo ci abitui. E lei di nuovo dice: ma non è possibile. Ora, credo questo è l'elemento così anche divertente, tra virgolette, della narrazione, che è tutta molto personale. Però per dire qualcosa di più, anche per contestualizzare questo libro, tra l'altro lo spiega, Natasha Walter nel 98 aveva scritto un altro libro che si chiamava The New Feminism. Era un libro che era stato accolto in un mare di critiche, per motivi opposti rispetto alle critiche che si potrebbero muovere a questo libro, nel senso che era stato considerato come un libro un po' post-politico, post-ideologico, una sorta di invito alla costruzione di un nuovo femminismo che, come ho letto in una recensione, teneva insieme le Spice Girls e Margaret Thatcher, quindi in questo così calderone privo di punti di riferimento importanti, in cui l'operazione però che lei faceva, e che lei richiama anche questo libro, era molto chiara, cioè cominciare a svincolare il personale dal politico, quindi rimettendo in discussione quello che è stato uno dei capisaldi della tradizione femminista, nella misura in cui negli anni 90, secondo lei, in qualche modo il problema di dover sindacare sulle scelte personali, individuali, quindi che hanno a che fare con la sessualità, l'abbigliamento, il costume delle donne, era qualcosa che in qualche modo non aveva più ragion d'essere, e che invece bisognava concentrare le forze su un altro fronte, cioè su quello delle battaglie, diciamo così, sociali, quindi sul terreno dei salari, sul terreno della rappresentanza politica e quant'altro. Quindi lei, quando pubblica questo libro, in realtà molte femministe non comunque se la prendono, dicendo: ma insomma, ma che discorso è? Che cosa significa dire che invece non c'è più bisogno di fare battaglie su quel terreno del costume, dei comportamenti, che invece è tuttora profondamente intriso e sessista? Quando Natasha Walter scrive questo libro, dice appunto: io ho scritto nel 98 un libro in cui dicevo tutta una serie di cose, penso di essermi sbagliato, ho sbagliato del tutto. Ricostruisce anche gli elementi per cui appunto dieci anni prima le sembrava giusto leggere le cose in quel modo. Ora, il sottotitolo del libro, Ritorno del sessismo, anche qui è lei che lo dice, non c'è un ritorno del sessismo, come se il sessismo fosse scomparso e poi adesso sta ritornando. Il sessismo non è mai scomparso. C'è un ritorno, o meglio, c'è una amplificazione, diffusione capillare e onnipervasiva del sessismo, soprattutto nella misura in cui lei dice che la cosa più perversa, tra virgolette, più curiosa, è che il sessismo viene spacciato per emancipazione. Quindi un po' la tesi del libro è che tutta una serie di comportamenti, diciamo così, liberali, libertini, che potrebbero, e che anzi vengono soggettivamente vissuti da chi li esprime come dei comportamenti emancipatori, in realtà sono una riproduzione di una retorica, un linguaggio, un discorso, un registro sessista, che invece è quello che, diciamo, condiziona a monte l'adozione di tutti questi comportamenti. Quindi, diciamo, una serie di questioni che vengono sollevate sono appunto legate all'ipersessualizzazione del corpo femminile. Insomma, tutta la prima parte del libro, il titolo è Il nuovo sessismo, la seconda parte invece è Il nuovo determinismo. Essendo un viaggio nel mainstream, ecco, prende in considerazione, diciamo così, il senso comune e l'esperienza comune, e questo secondo me è un merito, perché prendere sul serio l'esperienza comune è qualcosa che a volte la teoria femminista, parlo anche di ciò che avviene in ambito accademico, insomma, non fa fino in fondo. Cioè qui dentro non ci trovate così tanti riferimenti a quelle che sono poi le autrici cult dei gender studies o della queer theory, no, per niente. C'è la capacità invece di analizzare seriamente tutta una serie di pratiche, di comportamenti e di prodotti culturali. Ora, i riferimenti ovviamente sono prettamente rivolti al mondo anglosassone, direi anzi proprio alla Gran Bretagna, però non c'è nulla in cui cioè, insomma, non c'è nulla di incomprensibile o di particolarmente esotico per un lettore italiano nel seguire di che cosa si tratta. E il tema dell'ipersessualizzazione delle donne, che è una cosa che lei un po' affronta con questo tono del oh mio Dio, non ci posso credere, perché innanzitutto c'è un'enfasi anche sull'età, insomma lei incontra tutta una serie di ragazze molto molto giovani e tra l'altro parla anche di un capitolo alle bambine per analizzare come questo fenomeno dell'ipersessualizzazione è qualcosa che sostanzialmente comincia a 0 anni, cioè i modelli proposti attraverso i giocattoli, attraverso i marchi e quant'altro sono profondamente in crisi di non solo di sessismo, ma proprio di ipersessualizzazione, cioè le bambole delle bambine sono sempre più bambole con corpi ipersessualizzati. Quindi da una parte questo, dicevo, cioè l'età, diciamo, questa ipersessualizzazione che inizia a 0 anni e va avanti per sempre. E poi un altro elemento che appunto Walter Lesch legge come un paradosso è come le donne possano essere cadute in questa trappola, cioè come è possibile che si sia arrivati a considerare tutta una serie di pratiche che non possono che essere lette, se non in un registro di desiderio maschile, come possono aver assunto queste pratiche come delle forme di empowerment. In qualche modo è un accostamento magari poco canonico, però insomma l'idea che solleva la questione di Audre Lorde su, cioè, possiamo con gli strumenti del padrone distruggere, smantellare la baracca del padrone, ecco, un po' secondo me c'è questo interrogativo, cioè capire fino a che punto tutta una serie di forme di riappropriazione consapevole, di riappropriazione quindi scelta, ripeto, consapevole di certe pratiche, una riappropriazione, ecco, sono queste le chiavi o gli strumenti o le modalità attraverso cui possiamo diciamo, produrre una battaglia per l'emancipazione. Allora, vorrei dire due cose, diciamo, da un lato spiegare un po' cosa però intenda forse lei per emancipazione, perché sicuramente c'è un discorso di fondo che collega la questione dell'emancipazione appunto a un discorso più stranamente emancipazionista, presenza delle donne nei luoghi di potere, presenza delle donne, rappresentanza delle donne nei posti che contano. C'è anche un discorso più legato alla decostruzione dell'immaginario, insomma, il libro è in gran parte su quello, però io ho avuto, insomma, cioè ci sentivo molto questa tradizione anche del dibattito anglosassone di emancipazionismo legato appunto a quote, presenze, pari opportunità, diciamo così. Se l'ottica è quella di provare a decostruire un sistema simbolico e materiale di dominazione, la domanda, ripeto, che lei si pone, cioè se queste siano le armi giuste, è una domanda quantomeno sensata. Si può discutere sulle risposte, però credo che sollevare questo interrogativo non sia una cosa banale. Interrompiamo un attimo la registrazione della presentazione della parte relativa all'intervento di Jamila Mascà per ricordarvi che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia dalle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci anche qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre la nostra email contatti@clrbp.it se volete contattarci ed il numero per gli SMS 339-853-6270. Allora, fino alle ore 22 il telefono della radio 06 49 17 50 ed il nostro cellulare per i messaggi 339-853-6270. E adesso continuiamo ad ascoltare Jamila. Per fare invece la pacchettona, però sono due parole invece un po' più serie e sono giudizio e scelta. Cioè, dunque, lei, in realtà tutta l'avventura comincia, se non sbaglio, dicevo, con questi articoli che lei aveva scritto all'inizio, frequentando dei club di lap dance e soprattutto seguendo come un giornale per uomini britannico, che si chiama Nuts Magazine, faceva in giro per i locali delle serate per selezionare nuovi volti. Ora, i volti che compaiono sulle copertine della Spagna non sono delle supermodelle, sono un po' le ragazze alla porta accanto che possono denudarsi fino a un certo punto, quindi genitali coperti, però per il resto insomma di tutto di più. E chiaramente di nuovo il pubblico è molto giovane, le ragazze che partecipano sono giovanissime e lei comincia così, insomma comincia ad intervistare queste ragazze e poi va a intervistare anche il direttore del giornale, se non sbaglio l'ex direttore, Phil Hilton, a un certo punto gli dice, ma insomma rispetto a questa ansia così di capire, gli dice, ma io mi sono, ho smesso di pormi il problema di come giudicare. Ecco, questa cosa, e lei commenta questa frase, se non sbaglio, dicendo che insomma in questo mondo un po' governato dal mercato, allora sembra che il mercato detti le leggi, il mercato anche il mercato del sesso, e quindi che poi il problema di giudicare è un po'... Cioè, sembra essere una cosa fuori moda, appunto una cosa da moraliste. Io credo che il giudizio, ma anche proprio nel senso kantiano del termine dell'urtare, cioè la capacità di discernere e separare, invece sia qualcosa di assolutamente necessario e che la strategia politica, nel caso specifico quello che ci interessa, cioè una battaglia contro il sessismo, beh, la facoltà di giudicare è qualcosa che non possiamo lasciare da parte. Ora il giudizio ovviamente non è il... L'ho già detto, ma lo ripeto, non è il giudizio semplicemente di valore, diciamo, è una facoltà complessa che contempla l'analisi e anche un ragionamento, diciamo così, mezzi fini, cioè posti quelli che sono i nostri obiettivi da un lato e dall'altra parte anche cosa sono i nostri nemici, si tratta anche di valutare quali siano gli strumenti. L'altra parola più controversa è quella della scelta, che ritorna perché insomma sembra che molta della partita si giochi sulla scelta, cioè insomma, la questione è ma se una lo fa per scelta, che cosa fa? Balla la dance, balla la pole dance, decide di prostituirsi, decide di rifarsi le grandi labbra, decide di rifarsi il seno, decide di indossare tacchi alti 50 cm, tutte queste cose qui, che poi possono essere discutibili o meno, nel senso che possono piacerci o non piacerci, però il punto è se c'è una libera scelta, e c'è una libera scelta, questa libera scelta è in qualche modo insindacabile, non credo che lei consideri sempre tutte le scelte che vengono poi esplorate qui, vengano considerate dall'autrice come delle scelte consapevoli. Diciamo che spesso c'è anche un tentativo di voler vedere laddove una donna afferma consapevolmente di voler fare delle cose per scelta, che però forse in fondo così libera non è. Però cioè, il punto non è quello, perché io poi credo che porla in termini di che cos'è la totale libertà di scelta, siamo libere di scegliere in fondo. Non credo che sia un interrogativo che ha molto senso porsi in questo senso, perché ovviamente c'è sempre una commissione di condizionamenti. Di nuovo, io credo che la politica può ovviamente scadere nel moralismo, però invece un orizzonte sanamente politico consentirebbe di non scadere nel moralismo del è fatto bene, è fatto male, ma in una analisi di nuovo più strategica di cosa ci sta a cuore, quali sono gli obiettivi che ci sta a cuore perseguire. È ovvio che però lì si apre un baratro di discussioni rispetto anche a quali siano questi gli obiettivi, però su quello, ripeto, secondo me è fondamentale, cioè, partire da lì poi per ragionare se alcune forme sono strumenti del padrone che non riusciranno mai a smantellare la baracca, o invece strumenti che possono, appunto, nell'essere costantemente performati e risignificati, produrre qualcosa di diverso. Poi, insomma, magari continuiamo a... Ah, no, scusa.

testi scientifici, con testi più divulgativi e con episodi di cronaca. Quindi secondo me è in questo senso uno strumento molto utile per avere un quadro generale. Parla e prende una posizione molto forte rispetto al ruolo della scienza, e anche questo io lo apprezzo molto, perché effettivamente lo svelare il fatto che in molti, quel che poi vabbè, sono poi pregiudizi, ci sia tutto un ruolo di chi produce la conoscenza, secondo me è una cosa che ancora non si discute abbastanza. Lei lo fa e secondo me lo fa anche con coraggio, perché riprende testi insomma famosi sulla questione del cervello, del corpo, di un'attitudine diversa di uomini e di donne già dalla nascita, per cui prende tutti gli esempi degli esperimenti fatti sui neonati, no? E lei cita questo esperimento che poi ha avuto un grandissimo successo, del mostrare a neonati di un giorno, quindi non ancora entrato in contatto con il mondo esterno, un viso e mi pare una pallina con disegnati gli occhi e la bocca, e secondo le conclusioni di chi ha partecipato alla ricerca, tutti i neonati, comunque la maggior parte dei neonati maschi portavano l'attenzione sulla pallina, tutti i neonati femmine portavano l'attenzione sul viso. Questo dovrebbe dimostrare che i bambini sono più per le cose, diciamo così, pratiche, mentre le bambine sono più per le relazioni, no? Le relazioni affettive, eccetera, e quindi qua il determinismo di come sarà poi la loro vita, una dedicata alla maternità e l'altra probabilmente alla pornografia. Allora, in questo quadro lei appunto confuta questa tesi, ma lo fa anche molto bene, perché riprende il discorso, le risposte che sono state date a questa ricerca, e mostra come questa ricerca non possa in realtà essere presa in considerazione perché non ha le verifiche successive che sono, diciamo così, obbligatorie perché una ricerca poi possa avere diventare un punto di riferimento e poi una citazione. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché riporta l'attenzione su magari persone che non sono abituate a entrare nei meccanismi della produzione della conoscenza, aiuta a comprendere come la conoscenza non sia oggettiva ma parta sempre da un posizionamento. Un altro punto interessante è che lei inserisce il dibattito della cronaca con quello della scienza, cioè lei prende degli esempi tratti dalla cronaca, dai giornali, quindi dei media più divulgativi, e li mette in relazione proprio con queste teorie scientifiche o pseudoscientifiche, quando poi parla del famoso libro gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. Ecco, quindi questo testo ne parla in maniera molto chiara, anche lo fa, e anche secondo me questo è un altro punto a suo favore, lo fa attraverso un metodo che permette di non perdere il filo conduttore, ma allo stesso tempo ne parla non troppo sintetica, in modo tale che una persona possa entrare piano piano nell'argomento e lei lo sviluppa, no? Un'altra cosa, per esempio, anche interessante che ho trovato, è che lei riprende la questione dei videogiochi, che è un tema molto discusso all'interno appunto degli studi sui giochi, e poi in particolare il ruolo dei videogiochi, che poi sono appunto molto discussi anche per tutta la questione della violenza. E poi dice, per esempio, analizza campioni di storie e dice in percentuale quanti personaggi femminili e maschili che possono essere leader sono presenti, quindi un'analisi che permette di rendere visibile l'invisibilità delle eroine rispetto agli eroi. E quindi uno dice, certo, che poi è chiaro che le bambine si identificano con personaggi perché non ce li hanno altri, e quindi questo problema dell'identificarsi, di non avere modelli di riferimento, lei lo pone in tutto il testo, no? Perché quando parla di alcune personaggi, delle personaggi, delle bambine, adesso non mi ricordo, le Wix e un'altra, lei dice come queste, che appunto inizialmente potevano anche sembrare, non dico un modello di riferimento, però anche passabili, perché comunque queste facevano le mani, queste non facevano le bandiere, le winch, ma le braccia, lei le condanna, ecco, le braccia non hanno nessun tipo di scappatoia, perché queste qui sono quelle che possiamo dire, per usare un francesismo, la putanisation des petites filles è proprio concretizzata delle, in queste bambole che hanno tutti gli aspetti delle, della mignotizzazione della società, quindi proprio siamo nel concreto, nella corporalizzazione di questo senso, mentre in queste Winx sono in realtà delle maghe che si muovono all'interno di un contesto, che cercano di cambiare attraverso la loro forza, la loro presa di posizione, i loro valori che portano avanti. Quindi lei aveva riposto un certo tipo di speranze in queste Winx, che sono presto svanite nel momento in cui le Winx si sono trasformate, perché pare che per fare le magie, un tempo avremmo detto i miracoli, bisogna di nuovo avere questo aspetto da putanisation dei feticini. Questo problema lei lo pone come un problema evidente, cioè dice anche delle bambine che vogliono uscire e anche dei genitori che vogliono proporre cose diverse, in Inghilterra è difficile. Ecco, su questa parte, come dire, si sono concentrate di più le mie perplessità, che è tutta la prima parte del libro, perché usa un tono che io ho sentito moralizzante, che ho trovato abbastanza pesante. Lei comincia parlando di quelle che noi potremmo chiamare le veline riportate al nostro contesto, poi parla della lap dance e poi arriva alla prostituzione, perché per lei c'è quasi un rapporto conseguenziale. Ecco, questo tipo di rapporti causa-effetto è discutibile, perché lei mette in relazione la prostituzione alla violenza, però non fa distinzione tra i diversi tipi di prostituzione. Questa prima parte, che per certi versi rischi di, come dire, semplificare in parte una realtà che è molto complessa e che invisibilizzi delle voci che comunque vengono fuori, e vengono fuori magari in maniera meno diffusa, però ci sono. Quello che io trovo interessante in questo è che lei introduce alcuni nuovi femminismi e posizionamenti di nuovi femminismi, cioè quello che riprende, diciamo così, il dibattito degli anni 80 del femminismo pro-sex. Lei è evidentemente non d'accordo, però con come dire, onestà intellettuale riporta quel dibattito del femminismo pro-sex, lo riporta soprattutto nella parte riguardante la pornografia, parlando inizialmente di come le femministe si siano battute contro la pornografia, e poi dice, vabbè, c'era anche qualche voce contro, riporta in parte il dibattito del femminismo pro-sex, però lei conclude, o perlomeno questa è la sensazione, che queste proprio femministe non siano. In più, quando parla sempre dell'industria della pornografia, lei fa riferimento solo all'industria della pornografia mainstream, facendo tutta una serie di esempi e dicendo che comunque chi fa pornografia ha delle vite tristi, delle vite segnate dalla violenza, eccetera, cosa che indubbiamente ha un fondamento molto forte, però dimentica ad esempio tutto il dibattito portato avanti da Annie Sprinkle. In questo testo dice di quanto si sia divertita e di quanto quello che Natasha sostiene che non ci sia, cioè l'emotività, invece nella sua vita di pornostar fosse assolutamente presente. E secondo me questa parola, insieme a scelta, emotività, secondo me è una parola sulla quale questo testo ci porta a riflettere. Ecco, io credo che sia un testo impegnativo, perché ti mette alla prova la tua capacità di ascolto e la tua capacità di relazionarti con dei punti di vista diversi, questo per la prima parte. Però è un libro che non è impegnativo dal punto di vista della lettura, in più riporta queste due tematiche forti, cioè quella dell'emotività e della scelta, riportandole sia all'interno del contesto del femminismo, ma anche appunto in quello degli studi culturali, citando ad esempio Sex and the City. Ecco, queste sono tutte tematiche secondo me di una grandissima attualità e sono delle tematiche di cui ancora a livello divulgativo, a livello di diffusione del dibattito, non si parla ancora abbastanza. Ecco, io poi volevo dire un'altra, l'ultima cosa. Lei parla tantissimo della lap dance. Ora, a me è venuta una grandissima voglia di fare un corso di lap dance, perché a forza di leggerla, di tutto questo libro, queste cose che ho letto, cioè mi ha fatto venire una gran voglia, tanto per finire la citazione di Patricia. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.